Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve, benvenute e benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo del pensiero e della cultura, il cambiamento degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 633 e parleremo ancora dei terribili effetti della guerra in Ucraina, della saggezza, forse, dei popoli indigeni, di tutela del paesaggio, delle richieste che arrivano dagli scienziati che studiano i cambiamenti climatici in corso. La guerra in Ucraina sta distruggendo vite umane, città, anche un pezzo importante del nostro futuro. La guerra, ne abbiamo già parlato, riguarda anche gli animali, per i quali almeno si stanno aprendo dei corridoi che potremmo definire animalitari, se il neologismo è consentito. Sì, perché stanno uscendo dall'Ucraina non solo gli animali domestici, insieme coi loro compagni umani, e i cani ospiti dei rifugi o gli animali prigionieri negli zoo, come abbiamo raccontato nelle settimane scorse. Si sta cercando anche di organizzare l'esodo di asini, muli, cavalli, presenti in numero cospicuo nelle campagne ucraine. Uno specifico appello per agevolare la partenza e l'accoglienza degli equidi è stato sottoscritto da associazioni e rifugi italiani, l'Ente Nazionale Protezione Animali, Italian Horse Protection, il Rifugio degli Asinelli, la Lega Antivivisezione, il Progetto Highlander, la Rete dei Santuari di Animali Liberi in Italia. Un appello che chiede ai ministeri degli Esteri e della Salute di agire al fine di equiparare gli equidi agli animali da compagnia e quindi di concedere le stesse autorizzazioni speciali già decise per cani e gatti. Le organizzazioni si dicono anche disposte ad accogliere direttamente o a trovare ospitalità in Italia per gli animali che arriveranno dall'Ucraina. L'accoglienza e la solidarietà con le vittime della guerra ha dunque una dimensione che va oltre la specie umana. L'esodo degli equidi, va detto, è anche un tuffo nella storia. Riporta anch'esso alla memoria altri muli, altri asini, altri cavalli che in quegli stessi luoghi, oggi citati dalle notizie sulla guerra, circa 80 anni fa, parteciparono loro malgrado alla disastrosa spedizione italiana dell'Armir, i soldati inviati in sostegno all'invasione tedesca della Russia. Migliaia e migliaia di animali arruolati nel nostro esercito soffrirono e morirono in battaglia e poi nella spaventosa ritirata che seguì la disfatta. È un accostamento sinistro che aggiunge dolore a dolore, preoccupazione a preoccupazione, e che ci spinge a non farci nessuna illusione sugli effetti della guerra in corso e del suo possibile, se non probabile, allargamento. Marco Revelli, sociologo, intellettuale di grande spessore, nei giorni scorsi, in un articolo pubblicato sul sito Volere la Luna, ha ricordato l'esperienza del padre Nuto, tenente degli alpini scampato alla ritirata di Russia e poi partigiano sulle montagne piemontesi. Il figlio Marco è rimasto colpito dal ritorno, nelle cronache di guerra, delle stesse località di allora, la Valle del Don, il Donbass, l'area di confine fra Russia e Ucraina, tante volte citati nei libri di Nuto. Marco ha parlato della doppia angoscia che deriva dalla sovrapposizione di due temporalità coesistenti nello stesso territorio e poi del virus della guerra che ritorna. Revelli, nel suo articolo, parla proprio del padre Nuto. Ogni guerra, scrive, anche la più giusta, persino la guerra partigiana, che pure ebbe per lui un effetto catartico, di riscatto dei tanti morti lasciati nella steppa e dalla sensazione umiliante di sentirsi un vinto, persino quella, mi ripeteva, porta in sé un'ombra, ti lascia dentro cicatrici che fanno male, perché la guerra trasforma gli uomini, tira fuori il peggio che hanno dentro. Usava l'aggettivo bestiale come antitesi dell'umano. Bisogna evitarla ad ogni costo, diceva, perché una volta scoppiata il suo effetto di perversione non lo fermi più, negli altri e anche in te stesso. La guerra in Ucraina è vicina a noi non solo per geografia, dunque, ma anche per storia. Ed è una guerra bestiale, soprattutto in un altro senso rispetto all'accezione che ne dava Nuto Revelli, perché le guerre sono tutte e solo umane. Le bestie, così come vengono chiamate, non fanno guerre, le subiscono. La spedizione fascista in Russia fu un'ecatombe di uomini e anche di animali. Le nostre divisioni portarono con sé migliaia e migliaia di muli, cavalli, asini, impegnati nel trasporto di soldati, vettovaglie, armamenti. Una guerra bestiale, nel senso che fu inflitta anche agli animali. Anche per loro fu una mattanza, un'umanissima mattanza. Ogni guerra è così. Toes. When you're on the street, you got to be able to pick out the easy meat with your eyes closed. Then moving silently down in and out of sight. You've got to strike when the moment is right without thinking. La guerra in Ucraina e il suo possibile allargamento stanno mettendo a soqquadro gli equilibri economici mondiali, specie nel campo, ma non solo, delle materie prime. Le forti sanzioni contro la Russia, decise dall'Occidente, sono destinate a produrre forti conseguenze anche in Europa, per quanto, al momento, le sanzioni non includano le forniture di gas. Gli aumenti dei prezzi, tuttavia, sono già una realtà, anche per i combustibili, con effetti fin troppo facili da prevedere, inflazione, impoverimento diffuso, crisi aziendali, aumento della disoccupazione, recessione. Fra le preoccupazioni più forti c'è la questione alimentare, visto che l'Ucraina è un grande fornitore di frumento ed è di fatto stata messa fuori gioco, con i porti bloccati e le stesse nuove semine a rischio, per evidenti ragioni. Abbiamo chiesto a Francesco Panier, giornalista e attivista esperto di questioni ambientali, nonché titolare della nostra rubrica Lessico dell'Antropocene, di fare un quadro della situazione. Emergenza climatica e pandemia non erano abbastanza. Oggi, alle porte d'Europa, c'è anche la guerra, che è anche la parola da cui partiamo oggi per la nostra rubrica sull'antropocene. Già, perché la guerra, o meglio questa guerra, è solo l'ultima di una serie di crisi sovrapposte che stanno generando effetti a catena sulla globalizzazione e il suo funzionamento, che si riflette su tutte le nostre vite. Negli ultimi mesi abbiamo visto i prezzi dei combustibili fossili crescere a dismisura, la pandemia interrompere intere catene di approvvigionamento, mentre ora da ogni parte si lanciano allarmi per l'impatto della guerra sulla disponibilità e i prezzi di grano, mais e altre derrate agricole. Quello che possiamo trarne è che l'antropocene, questo momento della storia in cui l'umanità viene considerata come forza geologica, cioè capace di lasciare un'impronta indelebile sulla morfologia del pianeta, è un tempo non tanto di potenza quanto di fragilità. In questa tempesta perfetta si moltiplicano le voci che chiedono una maggiore protezione dalle turbulenze del mercato internazionale e una riduzione della dipendenza da queste filiere globali così incerte. Per il mondo ecologista, pur nella consapevolezza della spirale drammatica in cui gli eventi stanno precipitando le società, è certamente un sollievo vedere aprirsi un ragionamento sulla rilocalizzazione dei processi produttivi. La transizione ecologica, infatti, deve passare per una riduzione dei flussi di materia e di energia che attraversano i sistemi economici. Accorciare le filiere è parte di questa strategia, coerente con una ricerca della pace e una riduzione della competizione sfrenata. Tuttavia non è questo lo scenario che hanno in mente i grandi gruppi di interesse, almeno quelli che influenzano la struttura del sistema alimentare. Le proposte avanzate dalle lobby agroindustriali in questi ultimi giorni, infatti, non vanno nella direzione di una trasformazione del modo insostenibile di produrre e consumare il cibo. Si limitano alla richiesta di aumentare queste produzioni ecologicamente devastanti nell'Unione Europea, per non rischiare un'interruzione delle forniture da paesi in conflitto come l'Ucraina. E dunque ci troviamo nell'assurda situazione per cui le pur deboli regole ambientali approvate a livello europeo e nazionale rischiano di essere sacrificate sull'altare dell'ulteriore intensificazione della produzione alimentare, che già oggi vede 2/3 dei terreni occupati da monocolture proteiche destinate agli allevamenti intensivi. È proprio questo sistema che difendono e promuovono le associazioni di categoria e le industrie alimentari, ingigantendo il ruolo del conflitto in Ucraina nell'aumento dei prezzi alimentari, per ottenere l'abbattimento dei vincoli, a curare maggiormente la biodiversità nei campi, ridurre pesticidi e fertilizzanti e aumentare la quota di produzione biologica. I dati raccontano che invece il conflitto ha solo una piccola responsabilità nel picco dei prezzi di grano tenero, grano duro, mais, oli vegetali e fertilizzanti. Le cause principali sono la speculazione finanziaria e la crisi climatica, alle quali la guerra va a sommarsi, pur non essendo un fattore determinante. Ma un mondo basato sulla produzione industriale di carne e derivati è un mondo strutturalmente dipendente da meccanismi disfunzionali come questi. Ecco perché superare la crisi sistemica è possibile solo mettendo in questione l'allevamento degli animali e la loro trasformazione in cibo. Prima questo enorme non detto entrerà nel dibattito pubblico, prima cominceremo a intravedere le soluzioni. Love. Abbiamo già riferito nelle scorse puntate del nuovo allarme sullo stato di salute del pianeta lanciato dagli scienziati riuniti nell'IPCC, rete di esperti già insignita del premio Nobel per la pace, voluta dalle Nazioni Unite per studiare gli effetti dei cambiamenti climatici e indicare strategie di mitigazione ai decisori politici. Ebbene, come fa notare sul suo sito la LAV, Lega Antivivisezione, l'IPCC ha chiarito ancora una volta come la trasformazione dei sistemi alimentari sia necessaria se si vuole avere la possibilità di nutrire una popolazione sempre crescente su un pianeta che si sta sempre più riscaldando. Il capitolo 5 del documento degli scienziati, dice la LAV, spiega come la transizione verso una maggiore quantità di cibi a base vegetale sia utile tanto in termini di mitigazione dell'impatto sul riscaldamento del clima, quanto in vista di una riduzione della mortalità per malattie legate alla dieta, cioè all'eccesso di consumi di carne e di calorie. Gli scienziati, fra le altre cose, vedono di buon occhio la cosiddetta clean meat, la carne coltivata o in vitro, una risposta tecnologica, diciamo noi, in sintonia con la fase tecnocratica che stiamo vivendo da decenni rispetto alla necessità di cambiare produzione e consumi, e che avrebbe l'effetto di portare, dicono gli scienziati, a una significativa riduzione dell'uso della terra per i pascoli e per le colture destinate ai mangimi. Carne coltivata o no, l'indicazione è chiara. I governi dovrebbero favorire la transizione verso un'alimentazione non carnivora e quindi, per esempio, spostare i sussidi diretti agli alimenti di origine animale verso una produzione diversificata di cibi a base vegetale, in modo da indirizzare anche le scelte di consumo dei singoli. Receiving department, 3 a.m. Staff cuts have socked up the overage. Directives are posted, no callbacks, complaints. Everywhere is calm. Hong Kong is present, Taipei wakes up. Talk of circadian rhythm. I see today with the newsprint gray, my night is colored. A proposito di impatto ambientale, di scelte da compiere per proteggere gli ecosistemi naturali, una notizia singolare arriva dalla Tanzania, dove alcune centinaia di appartenenti alla comunità Masai hanno deciso di lasciare volontariamente il territorio dell'area di conservazione di Ngorongoro, un sito che è patrimonio dell'umanità per l'UNESCO, nel nord della Tanzania. L'esodo è una risposta alla richiesta del governo di abbandonare la zona, a fronte di un aumento giudicato eccessivo dei residenti. Si tratta, secondo il quotidiano tanzaniano Daily Star, di 453 persone distribuite in 86 famiglie e pronte all'indomani di una riunione fra i 350 leader anziani con il premier e la presidenza della Tanzania a trasferirsi in un'area di 400 km quadrati nella regione di Tanga, nel nord-est del paese. Il premier Kassim Majaliwa ha spiegato che l'area del Ngorongoro sta soffrendo una forte pressione per il passaggio in poco tempo da 8.000 persone, con 20-30 capi di bestiame a testa, fino agli attuali 110.000 residenti, che portano a 813.000 la somma con gli animali da pascolo. La partenza delle 86 famiglie è quindi volta a ridurre la pressione antropica su un'area protetta e dai delicati equilibri. Un gesto inconsueto, a prima vista responsabile e generoso, sul quale riflettere, senza però ignorare i dubbi che circondano l'operazione. Alcune organizzazioni accusano infatti il governo di fare pressione sui Masai per ampliare l'estensione della zona protetta solo nell'ottica di attirare il maggior numero possibile di turisti, in un'operazione che dunque nasconderebbe un obiettivo opposto a quello dichiarato. E secondo il think tank ambientalista Auckland Institute, circa 80.000 persone Masai correrebbero il rischio di essere a loro volta sfrattate dal governo. Occhi aperti dunque a fronte di una notizia che si presta a più letture. Tosco vegan chef Gabriele Palloni, come ogni settimana, dedica la sua ricetta a una delle notizie della puntata, e stavolta tocca proprio ai Masai. Vi ricordiamo che Gabriele Palloni è autore del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, un repertorio di ricette che dimostra quanto sia vario e fantasioso il campo di opportunità della cucina non violenta. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. Ispirata e dedicata ai Masai, la ricetta di oggi arriva dalla Tanzania e si tratta del makande. Ecco a voi ingredienti e procedimento. Makande, ingredienti per 4 persone: 250 g di fagioli rossi, una cipolla, 2 spicchi d'aglio, 75 g di coconut cream, 250 g di gran turco dolce, sale e peperoncino. Lasciate i fagioli in ammollo in acqua per una notte. Scolate e sciacquate, quindi portateli a cottura in una pentola con abbondante acqua a fuoco lento. Quando i fagioli saranno morbidi, scolateli, conservando il brodo di cottura. Aggiungete la cipolla tritata finemente, l'aglio schiacciato, la crema di cocco e il mais dolce. Aggiustate di sale e peperoncino e lasciate a fuoco lento ancora 20 minuti, fino a quando la crema di cocco si sarà ritirata. In caso dovesse risultare troppo asciutta, aggiungete un mestolo di brodo di cottura dei fagioli. Servite accompagnando con cipolla rossa cruda affettata finemente e dei pomodori. There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street, singing songs and carrying signs. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. strikes deep into your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. Chiudiamo ricordando che nei giorni scorsi, si può dire nella generale indifferenza, è stata celebrata la Giornata Nazionale del Paesaggio, un bene tutelato dalla Costituzione all'articolo 9, e però sottoposto a continue aggressioni dalle correnti politiche di enti locali e nazionali. Tre associazioni, Italia Nostra, la Lega Italiana Protezione degli Uccelli, LIPU, Mountain Wilderness, hanno diffuso un documento che ci pare un utile promemoria. Fra le altre cose, dice così: affinché la Giornata Nazionale del Paesaggio non sia semplice retorica, è urgente che il Paese intero, a partire dal Governo e dal Parlamento, metta in atto un nuovo approccio alla questione paesaggistica, con una visione diversa e scelte chiare e concrete, dalla legge contro il consumo di suolo, al potenziamento del personale delle sovrintendenze, dall'approvazione di regole serie per l'installazione di impianti per le energie rinnovabili, inclusi l'individuazione delle aree idonee e non idonee e l'inserimento di stringenti indicatori relativi al paesaggio, fino allo sfruttamento delle vastissime zone industriali ed ex industriali italiane da utilizzare per la produzione di energia solare, salvaguardando il più possibile il paesaggio, la natura, i terreni agricoli. Le gravissime crisi che il pianeta vive, concludono le tre associazioni, dall'emergenza climatica alla tragedia dell'Ucraina, non devono essere motivo per aggiungere danno al danno, dramma al dramma, ma l'occasione per ripensare davvero il mondo, mettere al centro i suoi valori più importanti e dare il via a una transizione ecologica e culturale vera e non dissimulata. Appunto. Gotta admit that I'm a little bit confused. Sometimes it seems to me as if I'm just being used. Gotta stay awake, gotta try and shake off this creeping malaise. If I don't stand by questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Francesca De Matteis, Roberta Marino, Gianluca Masala, Anna Granata, Francesco Pagnè, Gianni Ferrarotta, Valentina Reggioli, Zenone Sovilla, Gabriele Palloni e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.